Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, buonasera a tutti. Eccoci di nuovo raccolti attorno al Vangelo di Marco per continuare il nostro percorso di approfondimento della parola di Dio. Il Vangelo di Marco in questi nostri appuntamenti sta plasmando la nostra esistenza, la vuole scavare, la vuole plasmare, formare. Ecco, chiedo a quanti di voi stanno mettendo tutta la loro buona volontà per migliorare qualcosa di se stessi, di unirsi nella preghiera a tutti noi ascoltatori, perché quest'ora e mezza che trascorreremo insieme possa essere efficace e feconda. Teniamo sempre presenti gli obiettivi di questa nostra trasmissione. Come dice il titolo, La tua parola mi fa vivere, nostro obiettivo è quello di portare la parola di Dio non solo nella nostra testa, cioè non vogliamo solo cogliere alcune nozioni particolari del Vangelo di Marco, ma vogliamo incontrare la forza viva della parola, quella forza che ha la capacità di incidere sull'esistenza umana. Un secondo obiettivo è quello di diventare sempre più sensibili al dettaglio della parola di Dio, per cui cercheremo sempre di cogliere le sfumature che a volte si nascondono dietro singoli termini, dietro alcuni simboli utilizzati dall'Evangelista, per anche qua coglierne maggiormente l'impatto sulla nostra vita e anche acquisire quel rispetto alla parola di Dio che richiede sempre un tocco di attenzione, di silenzio, di rispetto del mistero. Il terzo obiettivo di questi nostri incontri è infine quello di cogliere la trama di Marco nella sua capacità narrativa, cioè ogni Vangelo quando viene composto ha una sua qualità narrativa che merita sempre di essere evidenziata e sottolineata. Bene, dopo aver richiamato gli obiettivi di questi nostri incontri, riprendiamo il nostro percorso. Siamo arrivati al capitolo 11. Come sempre chiedo a quanti ne hanno la possibilità di prendere un'edizione della Bibbia e di aprirla davanti a sé in modo da seguire insieme a me il testo, almeno per chi di voi ne ha la possibilità, per chi invece sta guidando, sta tornando dal lavoro oppure non ha la possibilità di avere una Bibbia davanti a sé per le ragioni più diverse, basta ascoltare e sentirsi uniti alla grande famiglia di Radio Maria. Siamo arrivati al capitolo 11. Oggi commenteremo insieme i versetti che vanno dal 12 al 26, nei quali si racconta la seconda visita di Gesù al Tempio di Gerusalemme. La volta scorsa abbiamo commentato insieme l'ingresso umile di Gesù nella città santa e abbiamo visto come la sua prima visita al Tempio di Gerusalemme è stata molto breve. Dopo essere entrato tra le acclamazioni a Gerusalemme, Gesù era salito al Tempio, il testo diceva che aveva volto lo sguardo tutto intorno a sé e la sera si era ritirato a Betania. Quindi così era stata descritta la prima visita. Nella seconda visita invece l'Evangelista si sofferma un pochino di più e noteremo che giocherà su due elementi simbolo, su due gesti simbolici. Il gesto nei confronti della pianta di fico che Gesù incontra mentre si sta avvicinando al Tempio e il gesto della cacciata dei venditori, dei mercanti del Tempio all'interno dell'edificio sacro. Ecco, il racconto che vedremo oggi è un po' costruito a sandwich, come si dice nel gergo tecnico, cioè è un po' come un panino. All'inizio e alla fine abbiamo la cornice del brano, al centro invece c'è l'elemento con cui l'Evangelista vuole colpire di più il lettore, cioè il racconto della cacciata dei venditori del Tempio. Ma leggiamo il brano nelle sue tre parti, cioè nelle due parti che compongono la cornice nella parte centrale, e poi lo commenteremo pezzo per pezzo, cioè a ognuno dei tre pezzi dedicheremo il nostro commento. Cominciamo allora con i primi tre versetti. Siamo al capitolo 11, leggiamo i versetti da 12 a 14. Il giorno dopo, mentre lasciavano Betania, Gesù ebbe fame. Avendo visto da lontano un fico che aveva foglie, si avvicinò per vedere se ci fosse qualcosa. Ma, giunto sul posto, non trovò nient'altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Gli disse: che mai più qualcuno possa mangiare un tuo frutto. I suoi discepoli ascoltavano. Ecco, il primo elemento della cornice ci presenta una scena un po' strana, una scena curiosa. Sembra quasi che Gesù, in questo giorno che ci viene presentato da Marco, si sia svegliato di cattivo umore, perché sta camminando verso il Tempio, sente lo stimolo della fame, si avvicina a una pianta e pretende che questa pianta dia frutti, anche se, sottolinea l'Evangelista, non era la stagione dei fichi. E insomma, ad un primo impatto, ad una prima lettura, sembra un pochino una reazione immotivata da parte di Gesù. Tanto vero che anche gli altri evangelisti manifestano un certo senso di disagio di fronte a questa scena. Pensate che Matteo, nel riprendere la scena, abbandona l'inciso in cui Marco specifica che non era la stagione dei fichi, proprio per non mettere una cattiva luce su Gesù. Altri esegeti ritengono che qui l'evangelista abbia ripreso un detto apocrifo, quindi non ispirato, inserendolo nel suo Vangelo, riprendendo uno dei detti che erano affini all'ambiente che aveva dato origine al Vangelo dell'infanzia dello pseudo Tommaso. Sapete che oltre ai testi canonici noi abbiamo i cosiddetti Vangeli apocrifi. I Vangeli apocrifi sono Vangeli che non sono ritenuti ispirati dalla Chiesa per diverse ragioni. La prima ragione è che sono testi tardivi, la seconda è che non sono stati utilizzati dalla liturgia antica, la terza ragione è che contengono delle eresie vere e proprie. Ecco, in questi Vangeli apocrifi noi troviamo spesso dei racconti che presentano un Gesù un po' eccentrico, un po' particolare. E uno di questi Vangeli è il Vangelo dell'infanzia dello pseudo Tommaso, che racconta alcuni episodi in cui Gesù era ragazzino, bambino. E in questi episodi a volte Gesù si manifesta capriccioso, pretende quello che nella natura, nel contesto, negli altri bambini gli possono dare e si arrabbia. Ecco, alcuni interpreti dicono che questa scena è molto affine a questi testi apocrifi perché presentano un Gesù che senza alcuna ragione se la prende con una pianta di fico perché non dà i frutti nella stagione in cui di per sé di frutti non ce ne dovevano essere. Noi però dobbiamo essere più attenti, cioè l'obiettivo dell'evangelista, proprio nel momento in cui con l'inciso sottolinea la stranezza dell'episodio, l'obiettivo dell'evangelista è quello di aiutare il lettore a cogliere il significato simbolico che c'è dietro questo episodio. E il significato simbolico noi lo possiamo recuperare quando abbiamo, teniamo presente sullo sfondo, la narrazione antico testamentaria. Nell'Antico Testamento la pianta di fico non è una pianta qualunque, è una pianta importante. È una pianta che insieme alla vite, alla vigna, rappresenta il popolo di Israele. In questo caso sembra che la pianta di fico rappresenti qualcosa di più del popolo di Israele, rappresenta il luogo per eccellenza in cui il popolo di Israele incontra il suo Dio, quindi rappresenta il Tempio. Tanto per fare un esempio tra i diversi profeti che fanno questo utilizzo della pianta di fico, pensiamo a Isaia, a Osea, a Gioele, a Michea, a Ezechiele, ne scegliamo uno. Scegliamo il profeta Geremia, e scegliamo Geremia per il semplice fatto che nel capitolo 11 Gesù cita più forte, lo vedremo subito dopo, questo profeta. Bene, al capitolo 8, nei versetti 10-11 seguenti, noi notiamo che in una delle sue profezie nei confronti del popolo, Geremia utilizza proprio l'immagine della pianta di fico e dice così: per questo io darò, sta parlando, sta minacciando il popolo di Israele, no, per le sue continue ribellioni, i suoi peccati, e dice: per questo darò le loro donne a stranieri, i loro campi ai conquistatori, perché dal piccolo al grande tutti commettono frode, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna, curano alla leggera la fatica, la ferita della figlia del mio popolo, dicendo pace, pace, ma pace non c'è. Li mieto, li annienta, oracolo del Signore, non c'è più uva sulla vite, né fichi sul fico, anche le foglie sono avvizzite. Ho procurato per loro degli invasori. Senza rimedio cresce il mio dolore, il mio cuore viene meno. Ecco, odo le grida della figlia del mio popolo da una terra sconfinata. Non c'è il Signore in Sion? Il suo re non vi abita più? Perché mi hanno provocato all'ira con i loro idoli e con nullità straniere? È passata la stagione della messe, è finita l'estate e noi non siamo stati salvati. Per la ferita della figlia del mio popolo sono affranto, sono costernato, l'orrore mi ha preso. Ecco, in questa pagina di Geremia notiamo che l'immagine della pianta di fico che resta senza frutti è l'immagine che da un lato denuncia il peccato del popolo, ma oserei dire di più, da un lato denuncia non tanto il peccato del popolo, ma il peccato di coloro che non curano la ferita della figlia del mio popolo, del suo popolo, cioè il peccato del profeta e del sacerdote, ed è proprio quello che Gesù si accinge a fare nel brano che stiamo ascoltando, cioè recandosi al Tempio Gesù se la prenderà proprio con le autorità religiose, perché non prendono a cuore la ferita della figlia del popolo. E poi dall'altro, perché all'interno della città si è diffusa l'idolatria, cioè al posto di favorire il rapporto tra il popolo e Dio, le classi sacerdotali favoriscono un culto che altro non è che una sorta di occhiolino all'idolatria, nel senso che se ne assumono i riti, se ne favoriscono, si favorisce una liturgia, se volete, falsa, non adatta a stabilire il rapporto tra Dio e il suo popolo. E proprio questo scuote l'anima del profeta Geremia. Bene, questa immagine sembra proprio fare da sfondo, insieme insieme anche alle altre immagini che troviamo negli altri profeti, sembra proprio fare da sfondo a questo episodio. Gesù, giunto presso l'albero, non trovò nient'altro che foglie, non era la stagione dei fichi, e quindi disse: che mai più qualcuno possa mangiare del tuo frutto. Ecco, una cosa è significativa. L'Evangelista sottolinea che da lontano Gesù resta colpito nell'osservare questa pianta di fico dalle foglie. Visto da lontano un fico che aveva foglie, si avvicinò per vedere. Giustamente gli interpreti vedono in questa pianta che incanta con il suo fogliame un'immagine del Tempio che incanta con le sue pietre. Non passerà molto tempo e vedremo che i discepoli di Gesù la sera, ponendosi proprio a guardare da lontano il Tempio di Gerusalemme, stando proprio sul pendio del Monte degli Ulivi, quindi ce l'avevano di fronte, dicono a Gesù: ma guarda che belle pietre, guarda che edifici. E Gesù risponderà loro: di queste pietre non resterà una sull'altra, ma tutto alla fine andrà in qualche modo rivisitato, distrutto. Ecco, questo per sottolineare come a volte gli edifici incantano con la loro apparenza, proprio come la foglia di fico incanta, la pianta di fico incanta con il suo fogliame, ma poi all'interno non sanno dare niente. E c'è ancora un'altra denuncia che Gesù sembra fare attraverso le parole dell'Evangelista, quando l'Evangelista dice non era quella la stagione dei fichi, eh? È un po' come la denuncia da parte di Gesù che il Tempio si è ormai ridotto a radunare le folle per le grandi feste di pellegrinaggio, per le grandi feste stagionali, la Pasqua, la Pentecoste, le capanne, ma poi non è in grado di dare altro. Mentre il luogo dell'incontro con Dio, il Tempio, l'edificio sacro, dovrebbe essere il luogo in cui in ogni istante della vita l'uomo può incontrare il suo creatore. Ecco, per Gesù il Tempio sembra essere venuto meno a questa sua vocazione primaria, quella di essere il luogo dove sempre l'uomo incontra con Dio. Ecco allora che la pianta di fico che viene incontrata da Gesù lungo il suo cammino sembra evocare tutti questi elementi. È una pianta che colpisce l'occhio ma non mantiene la sua promessa, come il Tempio che colpisce l'occhio ma non favorisce il rapporto con Dio. È una pianta che dà frutti stagionali, non li dà invece tutto l'anno, mentre, essendo simbolo del Tempio, in ogni momento dell'anno dovrebbe dar frutti, frutti di conversione, frutti di incontro tra Dio e l'uomo. È soprattutto una pianta che da un lato manifesta il peccato del popolo e dall'altro manifesta il dolore di Dio nei confronti di questo popolo, come dice tutta la tradizione profetica. Quindi vedete, cari ascoltatori, come dietro un piccolo simbolo, quello della pianta di fico, si nasconde un universo molto grande che approfondiamo ora andando avanti nella lettura. Ma prima di procedere nella lettura facciamo un breve stacco musicale, in modo che quanto ci siamo detti finora possa un attimo calare nei nostri cuori e magari essere ripercorso da ciascuno di voi nella lettura personale. Posta questa premessa sull'incontro che Gesù fa con questa pianta e quindi le reazioni che lui ha, capiamo anche la continuazione della narrazione. Leggiamo quindi i versetti da 15 a 19 che ci presentano la scena centrale di questo brano. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, cominciò a cacciare quanti vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. Inoltre, non permetteva ad alcuno di portare vasi attraverso il Tempio. Insegnava loro: «Non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece mi avete fatto una spelonca di briganti». I capi dei sacerdoti e gli scribi lo sentirono e cercavano il modo per farlo morire. Avevano però timore di lui, poiché tutta la folla era impressionata dal suo insegnamento. Giunta la sera, uscirono dalla città. Ecco, in questa scena centrale noi troviamo proprio la conseguenza di quanto è stato detto prima, cioè di fronte alla constatazione che l'edificio sacro sembra essersi svuotato del suo significato, Gesù irrompe all'interno di esso con dei gesti simbolici che hanno un impatto molto forte. Soffermiamoci un attimo su alcuni dettagli di questo racconto, vale a dire alcune espressioni che sono state utilizzate dall'Evangelista per cogliere alcune sfumature che magari dalla traduzione non emergono. All'inizio si diceva che entrato nel Tempio Gesù cominciò a cacciare quanti vendevano e compravano. Bene, il verbo che noi traduciamo con cacciare è lo stesso verbo che all'inizio del Vangelo viene utilizzato dall'Evangelista per indicare gli esorcismi, per indicare il miracolo di allontanare gli spiriti immondi dalle persone possedute. In altre parole, l'utilizzo di questo termine è una provocazione forte da parte dell'Evangelista, perché sembra dire che o il culto viene celebrato nel modo adeguato, oppure si aprono gli spiragli perché al posto di portare avanti, di tutelare la sacralità degli edifici, si aprono le porte allo spirito nemico, si apre le porte a Satana, per cui la prima pulizia che bisogna garantire all'interno del Tempio, luogo sacro per eccellenza, è quello di un vero e proprio esorcismo. Bisogna allontanare dal Tempio, secondo l'Evangelista Marco, la presenza di Satana. Secondo elemento che è curioso in questa narrazione è uno dei gesti che Gesù fa, perché Gesù in questa scena compie tre gesti. Il primo è quello di opporsi a quanti comprano e vendono nel Tempio, quindi a quanti hanno trasformato il luogo sacro in un mercato. Secondo, rovescia i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe, che sono entrambi necessari per comprarsi i sacrifici, quindi si oppone a un sistema sacrificale che attraverso il sacrificio vuole propiziare o guadagnarsi la misericordia di Dio. Gesù si oppone a questa strategia impostata sul sacrificio degli animali o dei beni delle persone. E infine il terzo gesto di Gesù è quello di impedire il trasporto. Ci viene detto non permetteva ad alcuno di portare vasi attraverso il Tempio. E qui gli studiosi si sono interrogati, perché se il primo aspetto e il secondo aspetto sono chiari, cioè Gesù non vuole che il Tempio sia un mercato, Gesù non vuole una religiosità che si pulisce la coscienza attraverso il sacrificio e poi dice tutto è a posto, è come un lavarsi la coscienza dei problemi. Il terzo gesto, l'opporsi al portare vasi, non si capisce bene. E allora ci sono tre possibili interpretazioni riguardo a questo portare vasi. Secondo alcuni, Gesù si oppone al fatto che le guardie del Tempio, che facevano parte della classe dei Leviti, portassero delle armi con sé. Quindi il concetto di vaso, il termine skewos utilizzato in greco, potrebbe essere tradotto anche, come avviene altrove, con arma. Quindi Gesù sembra opporsi al fatto di utilizzare delle armi in uno spazio sacro. L'interpretazione però non trova il consenso di tutti e secondo altri studiosi qui Gesù si opporrebbe a una cosa che metteva a rischio la purità dei vasi sacri. In altre parole, per accorciare la strada che bisognava fare per portare nell'area sacra del Tempio i vasi per il culto, alcuni leviti cosa facevano? Attraversavano il cortile dei gentili, il cortile dove potevano accedere anche i pagani. In questo modo potevano utilizzare una scorciatoia e arrivare direttamente nell'area sacra. Però le persone più pie ritenevano che questa scorciatoia fosse una cosa non positiva, perché esponeva i vasi sacri al contatto con i pagani, quindi a sorgenti di impurità. Ecco, Gesù si opporrebbe a questo, secondo questi studiosi. C'è infine una terza interpretazione, secondo la quale il fatto di opporsi al portare vasi attraverso il Tempio avrebbe un significato che rinforza la seconda posizione di Gesù. Gesù si opporrebbe a un sistema sacrificale, si opporrebbe in altre parole a chi vuole mettere in pace la propria coscienza attraverso la semplice ritualità. Il triplice gesto di Gesù, che ha una forza valenza profetica, vorrebbe invece riportare coloro che salgono al Tempio al vero rapporto con Dio. E per riportare l'uomo al vero rapporto con Dio, evoca ancora una volta Geremia. Nelle parole di Gesù, quando dice al versetto 17, non sta forse scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni, voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. Ecco, in questa espressione Gesù richiama sia il profeta Isaia sia il profeta Geremia. E allora riprendiamo anche in questo caso il passaggio in cui Geremia dice queste parole. Per capire il brano di Geremia leggeremo il capitolo 7 dai versetti 1-14 del profeta Geremia. Per capire il passaggio provocatorio di Geremia bisogna capire il contesto in cui avviene la scena che tra poco leggeremo. Geremia apparteneva a una dinastia di sacerdoti decaduti, era la dinastia a cui un tempo apparteneva Eli, il sacerdote di Silo, che un giorno aveva accolto con sé il profeta Samuele. Proprio a motivo dei peccati della famiglia di Eli, il tempio di Silo andò distrutto e la dinastia di questi sacerdoti venne un giorno relegata nei pressi di Anatot, dove era appunto originario Geremia. Questi sacerdoti erano considerati esposti ad una maledizione tanto grave per la quale non potevano più entrare nel Tempio. Potevano avvicinarsi al Tempio fino alle sue porte, ma non potevano entrare nel Tempio. Proprio per ricordare a tutto il popolo la maledizione a cui erano stati esposti quando non avevano compiuto il culto nel modo adeguato. Quando Gesù richiama nel gesto della cacciata dei mercanti del Tempio Geremia, è quindi provocatorio, cioè sta dicendo in altre parole che se il popolo e i suoi responsabili non si convertono, faranno la stessa fine, i sacerdoti faranno la stessa fine della dinastia un tempo a cui apparteneva un tempo Geremia, che fu allontanata per sempre dal Tempio. E le sue parole riecheggiano il capitolo 7, dove Geremia viene chiamato da Dio e viene mandato alla porta del Tempio, sentite a dire, a portare che tipo di annuncio. Ecco, rileggiamo allora questa scena in cui Geremia si presenta al Tempio di Gerusalemme. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronuncia questo discorso. Ascoltate la parola del Signore voi tutti di Giuda, che varcate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Rendete buona la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate in parole menzognere ripetendo, questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore. Se davvero renderete buona la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l'orfano, la vedova, se non spargerete sangue innocente in questo luogo, se non seguirete per disgrazia dei stranieri, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi i vostri padri, da sempre e per sempre. Ma voi confidate in parole false, che non giovano. Rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate. Poi venite e vi presentate davanti a me in questo tempio sul quale invocate il mio nome e dite, siamo salvi, e poi continuate a compiere tutti questi abomini. Forse per voi è una spelonca di briganti questo tempio nel quale invocate il mio nome? Anche io però vedo tutto questo, oracolo del Signore. Andate allora a vedere la mia dimora in Sion, in Silo, dove avevo da principio posto il mio nome. Considerate che cosa ne ho fatto a causa della malvagità di Israele mio popolo. Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni, oracolo del Signore, e quando vi ho parlato con premura e insistenza non mi avete ascoltato, e quando vi ho chiamato non mi avete risposto, io tratterò questo tempio sul quale invocate il mio nome e in cui confidate, e questo luogo che ho concesso a voi i vostri padri, come ho trattato Silo. Capite, cari ascoltatori, la forza di questo messaggio di Geremia. Geremia, uno dei profeti maledetti, viene mandato, uno dei sacerdoti maledetti, viene mandato alle porte del tempio, perché dentro non può entrare, alle porte del Tempio a dire vi dovete convertire altrimenti tutti voi farete la fine della mia dinastia. E poi le parole di denuncia di Geremia si concentrano in quella domanda dove dice: forse per voi è una spelonca di briganti questo tempio sul quale invocate il mio nome? Ora, questa espressione è proprio quella che Gesù utilizza quando dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni, voi invece ne avete fatto una spelonca di briganti. Quindi è un'immagine molto forte. Gesù ovviamente con questa immagine non sta dicendo che vuole distruggere il luogo sacro, ma sta sottolineando che il luogo sacro ha bisogno di una riforma radicale, o meglio, i cuori degli israeliti e soprattutto delle autorità hanno bisogno di una riforma radicale, di una riforma che nasce dalla conversione. Si nota tra l'altro nelle parole di Gesù una rivoluzione di quella anche che era l'attesa messianica del primo secolo. Nel primo secolo, e noi ne abbiamo prova sia nei testi di Qumran, sia in altri testi apocrifi come ad esempio il primo scritto di Enoch, noi abbiamo delle testimonianze molto chiare che parlano dell'attesa del Messia, e si descrive il Messia che un giorno arriverà come colui che ristabilisce il culto, ma ristabilisce il culto con un obiettivo: il culto deve essere purificato, il Tempio deve essere purificato perché Israele vi possa trovare dimora e Israele possa diventare il luogo attraverso il quale tutte le genti potranno in qualche modo convertirsi. La parola di Gesù va in qualche modo, allarga in qualche modo questa prospettiva, perché lui dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Gesù qui non esige in prima istanza la conversione delle nazioni perché queste possano salire al Tempio, esige la conversione dei responsabili del Tempio perché tutti possano trovare lì accoglienza. È un modo diverso di vedere le cose. È come se da parte di Gesù la priorità sia quella di mostrare a tutte le nazioni, quindi a tutti coloro che salgono al Tempio, l'accoglienza senza mettere degli sbarramenti, come era appunto pensato nel primo secolo il Tempio, tra Dio e l'uomo. L'importante è la docilità del cuore, quella docilità che permette che il cuore in qualche modo si converta a Dio. Tra l'altro l'espressione che in greco viene utilizzata per indicare la spelonca di briganti, spelaion, leston in greco, l'espressione appunto lestes utilizzata per dire il brigante, non indica semplicemente il ladro, per il ladro viene utilizzata un'altra espressione in greco. Il lestes è colui che agisce con violenza contro la legge. Quindi Gesù denuncia nei confronti del Tempio, utilizza parole forti perché denuncia un sistema violento per imporre in qualche modo la religiosità nei confronti degli altri. E allora capiamo la reazione. Quell'accusa di violenza rivolta da Gesù vediamo che trova subito attuazione, perché i capi dei sacerdoti e gli scribi che lo sentirono cercavano subito di farlo morire, solo che sono ostacolati dalla folla, perché tutta la folla è impressionata dalla didache di Gesù, dall'insegnamento di Gesù. Ecco, penso che questo elemento che sta al centro del racconto di questi versetti di Marco contenga molte provocazioni anche per noi, perché quei tre rischi a cui sono esposti gli israeliti del tempo di Gesù sono anche i nostri rischi. Il primo rischio è quello di trasformare il culto in un mercato. Il secondo rischio era quello di trasformare il culto in un modo per rendere tranquilla, mettere in pace la propria coscienza con qualche formula, qualche gesto, qualche rito. Il terzo rischio è un pochino quello delle scorciatoie. Nei confronti di Dio vogliamo sempre avere delle scorciatoie, delle vie privilegiate attraverso le quali portare i nostri vasi davanti a Dio con tutte le nostre richieste, senza capire invece che il rapporto con Dio è qualcosa di diverso, è qualcosa che è destinato a plasmare la nostra esistenza perché sia irrorata sempre di più da quella che è la grazia divina, il suo amore che vuole da noi dei cuori aperti a tutte le nazioni. Allora sostiamo ancora, facciamo ancora una breve sosta musicale, un breve stacco musicale per ulteriormente interiorizzare quanto ci siamo detti, per poi concludere con gli ultimi versetti di questo brano. A questo punto arriviamo alla seconda cornice, quella che chiude il brano. Sono i versetti da 20 a 26, ascoltiamo come continua l'episodio. Ripassando al mattino presto, vide il fico seccato fin dalle radici. Pietro allora, ricordandosene, disse: «Maestro, guarda, il fico che hai maledetto si è seccato». Gesù replicò loro: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che se qualcuno dirà a questo monte: levati e gettati nel mare, senza esitare nel suo cuore, ma credendo che ciò che dice accade, ciò si verificherà. Perciò vi dico, tutto quello che chiedete nella preghiera, credete di averlo ottenuto e vi sarà concesso. Quando poi state pregando, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, e anche il Padre vostro che è nei cieli vi perdonerà i vostri peccati». Ecco, la seconda visita di Gesù al Tempio si chiude in questo modo. Abbiamo visto quindi il racconto a forma di sandwich, cioè si inizia con la scena con il fico, al centro c'è la scena della cacciata dei venditori del Tempio e si ritorna ancora sulla scena di partenza. Il ritorno sulla scena di partenza avviene con la reazione di Pietro. Quando vede il fico seccato, dice subito al maestro: «Maestro, guarda, il fico che hai maledetto si è seccato». Effettivamente qui Pietro forse fa un passo più lungo della gamba, nel senso che interpreta le parole che Gesù ha detto alla pianta di fico come una maledizione. Però Gesù non ha maledetto il fico, Gesù ha semplicemente detto nessuno possa, Gesù aveva semplicemente detto che mai più qualcuno possa mangiare un tuo frutto, non aveva maledetto il fico, però ecco, quello che viene constatato dalla pianta seccata al mattino viene interpretato da Pietro come una maledizione. Questa constatazione di Pietro ha suscitato nella storia delle interpretazioni molto azzardate, perché sono state interpretate dalla storia come se Gesù avesse maledetto nell'immagine del fico il Tempio con tutto quello che c'era al suo interno. Gesù non è portavoce di una maledizione del luogo sacro, non è quello che Gesù vuole sottolineare, ma Gesù vuole salvaguardare ciò di cui il luogo sacro deve essere custode, cioè il vero rapporto con Dio, e lo vedremo subito alla fine di questo episodio. Notiamo come Gesù replica utilizzando, accostando all'immagine della pianta un'altra immagine che è quella del monte. Gesù replicò loro dicendo: «Abbiate fede in Dio, in verità vi dico che se qualcuno dirà questo monte», e allora ci si chiede qual è il monte che Gesù ha davanti. Se Gesù ha davanti il Tempio, perché sta risalendo nuovamente al Tempio, siamo al mattino, sta rientrando da Betania e sta salendo nuovamente a Gerusalemme, se lui come il mattino precedente ha davanti a sé la città di Gerusalemme, il monte è ancora una volta il monte del Tempio. E abbiamo conferma ancora una volta di questo nel fatto che l'immagine del monte torna per indicare il Tempio nella tradizione sempre profetica. Basta leggere uno dei profeti che utilizza questa immagine, il profeta Michea. profeta Michea, al capitolo 4, nei primi 4 versetti, così descrive il pellegrinaggio dei popoli alla città santa, e scrive così: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli. Adesso affluiranno le nazioni. Verranno molte genti e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra genti potenti, fino alle nazioni più lontane. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Siederanno, e ascoltate bene qui, siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico, e più nessuno li spaventerà, perché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato. Allora, notate come in questo brano le due immagini si uniscono. Il monte rappresenta il Tempio, e questo Tempio che viene rinnovato, questo monte che viene rinnovato da Dio, diventa il luogo dove la pace si stabilisce, e l'immagine della pace è quello che ognuno può sedersi tranquillamente sotto il fico, nuovamente l'immagine della pianta. Ora, nel brano invece di Marco che abbiamo ascoltato, Gesù replica all'interpretazione di Pietro, che dice: ma la tua maledizione ha portato subito effetto, dicendo: abbiate fede in Dio, io vi dico che se qualcuno potrà dire a questo monte: levati e gettati nel mare, senza esitare nel suo cuore, ma credendo che ciò che dice accade, ciò si verificherà. Cosa sta dicendo Gesù? Gesù sta, in altre parole, dicendo ai suoi discepoli che ciò che è importante non è il Tempio in quanto tale, il monte in quanto tale, ma quello di cui il Tempio deve essere custode, cioè il rapporto con Dio. Questo rapporto è garantito dalla fede e dalla carità vicendevole. Se c'è la fede, l'uomo non deve temere. Può dire anche al monte, vale a dire al Tempio, di gettarsi nel mare, e il mare era il luogo anche dell'impurità, la sede dei demoni, per cui il luogo sacro si getta nelle profondità dell'abisso, non fa nulla, l'importante è che ci sia la fiducia in Dio e che questa fiducia in Dio arrivi a plasmare l'esistenza. Ecco perché l'ultimo versetto dice: quando poi state pregando, cioè non basta la fede, quando poi state pregando, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, e anche il Padre vostro che è nei cieli vi perdonerà i vostri peccati. Cioè alla fede deve subito agire, seguire di conseguenza la carità. E allora vediamo come Marco già imposta nel suo discorso l'immagine che probabilmente ha recepito dal grande apostolo delle genti, dall'apostolo Paolo, che è l'immagine del nuovo Tempio. Il Tempio cristiano è il Tempio fatto di pietre vive, il Tempio che è il corpo del Signore, costruito da tutte le sue membra, che sono i discepoli, i fedeli, ciascuno di noi. E allora questo nuovo Tempio vivo, che non è più un edificio in quanto tale, ma è un tessuto di relazioni tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e il suo simile, dove regna la fede e la carità, diventa il vero monte a cui salire, diventa la vera pianta rigogliosa da cui attendere dei frutti. Cari ascoltatori, anche quest'oggi penso che l'Evangelista Marco ci abbia dato diversi spunti di riflessione per la nostra fede e anche per il tempo liturgico che stiamo vivendo. Ci stiamo preparando alla Pentecoste, e cosa più dello Spirito Santo, chi più dello Spirito Santo può aiutarci ad essere pietre vive, corpo nel quale vive e batte il cuore di Cristo. Lasciamo ora un altro stacco musicale, mentre chiedo a voi ascoltatori di preparare le vostre domande. Come sapete, i vostri interrogativi sono molto importanti per la nostra trasmissione. non si tratta solo di esprimere curiosità, chiarimenti, ma si tratta di contribuire a questa trasmissione. Sappiamo che, come dicono i maestri dell'ebraismo, ogni parola della scrittura può avere 365 significati. Quello che io vi ho esposto questa sera è stato solo uno di questi. È probabile che dai vostri interrogativi ne possano emergere qualche altro. Ecco perché le vostre domande sono preziose. Lasciamo quindi un breve stacco musicale per lasciare a tutti voi l'opportunità di pensare e formulare le vostre domande e ci risentiamo tra qualche istante. Pronto, buonasera. Buonasera padre. Senta, io ho sentito la catechesi, non ho nessuna domanda su quello perché non ho dubbi sul Vangelo, su Gesù, su Dio. Io le chiedo una cosa, un favore chiedo alla grazia a Dio. La preghiera del cuore, come faccio a sentire? Come si fa? Cara signora, lei pone... Sono Franca da Milano, scusi se non mi sono presentata. Grazie signora Franca da Milano. La domanda che lei pone è una domanda molto forte perché arrivare alla preghiera del cuore è un dono che solo lo spirito può fare. Non sono gli studi che portano alla preghiera del cuore, non sono le tecniche. A volte noi ci illudiamo che alcune tecniche di meditazione possano portarci alla preghiera del cuore. Non sono queste cose, ma è un dono che viene dall'altro, dall'alto, unito al percorso personale, all'appuntamento, possiamo dire, quotidiano con il Signore. Quando noi amiamo una persona, con questa persona in genere abbiamo degli appuntamenti regolari, cerchiamo di renderci presenti, di farci vivi, di dialogare, di condividere con Lui, no? Il più possibile. Lo stesso avviene col Signore nella preghiera. Se veramente Lui è un partner importante della nostra vita, abbiamo con Lui un appuntamento quotidiano ed è un appuntamento non fatto di formule che pure hanno la loro importanza, ma è un appuntamento dove il cuore si apre. Però arrivare all'apertura del cuore non è scontato, arrivare a coinvolgere il cuore non è scontato. Ci sono degli aneddoti molto belli dei padri della Chiesa dove questi grandi maestri della spiritualità invocavano proprio il dono della preghiera del cuore e alcuni di loro dicevano che il segno della preghiera autentica è quando il Signore dona la compunzione del cuore. Che cos'è la compunzione del cuore? È il pianto che nasce dalla consapevolezza della grandezza dell'amore di Dio da un lato e della nostra povertà dall'altro. Ecco, arrivare a questo, ad una forma di rapporto così, dove si resta esposti a Lui fino alle lacrime, perché ci si rende conto della grandezza del Suo amore e della nostra povertà in ogni istante, è un grande dono. Su questo non posso darle delle risposte come una persona che l'ha già raggiunta, perché anch'io sono in cammino insieme a lei nella ricerca di questa preghiera del cuore, di questa compunzione del cuore. L'importante, cara signora, è non venir meno nell'appuntamento quotidiano con Dio e far sì che questo appuntamento quotidiano sia il più possibile vero, ogni giorno, ogni santo giorno. Grazie signora Franca. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera padre Giacomo, Giovanna da Palermo. Mi padre, dica Giovanna. Volevo chiedere una cosa che nel passato una vita da peccato, sto cercando di rimediare con la grazia di Dio, speriamo sempre, e alla sua misericordia diciamo, mi capita che qualcuno mi dice, cioè io penso che molte volte confondiamo la nostra religiosità con la superstizione e penso che Gesù quando dice, quando si incavola diciamo nel tempio è un pochino questo, cioè per esempio mi dicono prega per me, per quella persona, però me lo dicono come se fosse un leggere le carte, sai, mi serve per questo fatto. Siccome nel passato purtroppo ho avuto questa esperienza, me la ritrovo, come dire, io prego per loro, credo in Dio, in Gesù, lo Spirito Santo li illumini, ma spero proprio nelle mie piccole preghiere, spero molto, ma molto è faticoso l'umiltà, proprio di scendere nel più profondo del cuore, davanti al tabernacolo. Prego per tutti, però mi vedo molta superstizione in queste cose. E poi un'altra cosa che mi fa dolore, quando mi parlano della Chiesa ricca, e il fatto di Gesù che manda via tutti i commercianti, non crede, Padre, che c'è un pochino nei santuari ovunque molta che fa allontanare la gente da Gesù, diciamo, dalla Madonnina, con tutta questa gente che è troppo fa superstizione, insomma, non il poco è giusto, ma è troppo, oppure come nelle processioni, i grandi giochi di fuoco che non fanno dormire la notte. Credo che in certe cose la nostra religiosità è bella, crediamo in Dio veramente, però dovremmo darci una regolata, Padre. Mi perdoni, l'ascolto per radio. Grazie signora Giovanna per il suo intervento, che tocca diversi argomenti. Il primo è proprio quello della conversione, no? Lei ha condiviso con noi l'esperienza di conversione e ha cercato di sottolineare alcuni degli ingredienti che caratterizzano questo. Proprio prima della nostra trasmissione Padre Livio ci parlava del suo libro sulla conversione, che ci farà compagnia, no, nelle prossime settimane. A mio avviso, ecco, questo ulteriore dono che Padre Livio ci dà illuminerà un pochino tutti noi, perché effettivamente abbiamo bisogno di capire cosa significa realmente conversione, cosa significa realmente lasciare che la parola di Dio plasmi la nostra esistenza. A volte lei ha ragione, a volte noi corriamo il rischio di una religiosità che è lì al limite tra la religiosità e la superstizione. Di fronte a questo, a mio avviso, bisogna avere due tipologie di atteggiamenti. Da un lato, bisogna tenere presente che non tutti siamo allo stesso punto del cammino. Non dico che c'è un più o un meno, perché ognuno ha un percorso diverso, quindi ciò che per uno potrebbe essere poca cosa, per l'altro invece è molto agli occhi di Dio. Però bisogna un pochino essere rispettosi, cioè c'è un modo di esprimere la propria fede che è della gente semplice. Io provengo da un piccolo paese della Bergamasca, no? Io ricordo quando ero più piccolo, dove i miei compaesani, la mia gente, esprimeva la propria fede in gesti molto semplici, molto strani. Ricordo quando andavo con il mio parroco a benedire le case, e io ero un ragazzino di 10 anni, una volta arrivavamo in una casa e la signora che ci ospitò per la benedizione tradizionale delle case chiese al parroco un sant'uomo, ai miei occhi, chiese al parroco di benedire il pollaio perché le galline non facevano più le uova a motivo dei topi che infestavano quel pollaio, e quelle uova per questa famiglia erano importanti perché facevano parte della loro sussistenza. Bene, oltre a benedire la casa, benedimmo il pollaio, e ricordo che la domenica successiva, mentre ero in sacrestia con il mio parroco, questa signora entrò in lacrime in sacrestia ringraziando il parroco perché i topi erano andati via dal pollaio e le galline avevano ricominciato a fare le uova. Ora, noi con gli occhi di oggi diremmo questo gesto un gesto superstizioso, però la gente semplice a volte si esprime con una modalità, esprime in una modalità la loro preghiera accompagnandola con la fede, e ciò che per altri è superstizione invece per queste persone è un atto di fede, un atto di fiducia, un atto di abbandono nella provvidenza di Dio. Quindi il primo atteggiamento è quello di cercare di capire la disposizione con cui si compiono alcuni gesti. lei menzionava i santuari. Vicino al mio paese c'è il santuario di Caravaggio, un santuario a cui anch'io sono molto legato, e basta restar lì una giornata per vedere la gente che sfrega i fazzoletti sulla colonna, riempie le taniche di acqua e poi la beve, gesti del genere che agli occhi di alcuni possono apparire superstiziosi e forse in alcuni casi lo sono, ma dipende dalla disposizione con cui uno compie questi gesti. Se sono fatti con cuore semplice, con cuore umile davanti a Dio, a mio avviso questi gesti assumono la loro importanza. Quindi dipende sempre un pochino dal modo in cui uno compie questi gesti. Soprattutto, certo, quando questi gesti si uniscono poi ad altre cose che sono contrarie ad essi, allora lì bisogna fare chiarezza. Ricordo una volta una signora che si presentò appunto per il sacramento della riconciliazione e portava al collo il cornetto e la croce. E ricordo che le chiesi: ma come mai porta le due insieme? Qual è il più efficace? E lei mi rispose dicendo che proprio per rendere tutti e due efficaci aveva bisogno di tutti e due gli oggetti appesi al collo. E lì tenni una catechesi su ciò che è superstizione e ciò che è fede, che sono ovviamente due cose diverse. Bisogna saper distinguere. Poi l'ultima sua provocazione era legata all'aspetto dei luoghi di culto, no? Che a volte possono distogliere o per tutto ciò che gli sta attorno o per come vengono celebrate alcune feste tradizionali, parlava delle processioni, dei fuochi d'artifici, che rendono pesante e impediscono quasi l'avvicinamento a Dio. Anche questo è vero. Ma anche in questo bisogna distinguere, cioè la tradizione della Chiesa ritiene importante nelle manifestazioni della fede anche ciò che gli anni, la storia, le generazioni vi hanno aggiunto strada facendo, per cui oggi noi ci troviamo a volte a partecipare ad alcune processioni, soprattutto in alcuni posti d'Italia, dove magari nelle processioni ci sono delle ritualità un pochino strane. Ovvio, qui dipende molto dalla sapienza dei pastori del posto, a riuscire a far capire alla gente ciò che è vera devozione da ciò che invece è un'eredità storica, che è bene mantenere ma che non esprime necessariamente quello che la sensibilità moderna chiama o contemporanea chiama fede. Quindi dipende sempre molto dalla disposizione con cui uno vive i singoli momenti, con cui uno vive il rapporto con Dio. Grazie signora Giovanna per la sua testimonianza. Pronto? Pronto? Mi dica signora. Pronto. Buonasera Don Buonasera, Giacomo. Sì. Sentire telefono dalla provincia di Monte Brianza. Sì. Mi chiamo Pierangela. Sì. A proposito di quello che lei diceva, adesso magari poi mi confondo, comunque quello che a me è venuto in mente mentre sentivo la sua catechesi è questo, che praticamente nei versetti che lei ha letto si dice, si invoca la purezza del cuore, attraverso la quale, cioè se il popolo di Dio, sia esso, lì forse si parlava del popolo ebraico e sì, del popolo poi cristiano, certo, se questi due popoli hanno questa purezza del cuore, lì si diceva, possono dire, in montagna spostati, vai nel mare, e quella lo fa. E mi sembrava che poi alla fine lei diceva che quando si sarà arrivati a questo punto, diciamo, e sotto il fico e sotto la vite, i popoli dimoreranno in pace e guarderanno svolgersi intorno a loro la pace proprio del creato. Allora a me veniva in mente di pensare che mentre il fico è un albero antico, questo rappresenti il popolo di Israele, e la vite invece, che è il simbolo di Gesù, del cristianesimo, rappresenti il popolo cristiano. E allora pensavo, quando questi due popoli veramente, o noi che facciamo parte di tutto il creato, no? Abbiamo questa disponibilità nel cuore, questa purezza, insomma, non so, ecco, siamo arrivati proprio al punto della, non so come dire, della pace, della certo, pace totale. Certo. Lei praticamente in questo suo intervento richiama quella profezia, no, di Michea che abbiamo letto a commento della parola di Gesù riguardo al monte, dove Gesù dice: in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte levati e gettati nel mare, senza esitare nel suo cuore, ma credendo che ciò che dice accade, ciò si verificherà. Ecco, noi avevamo letto su questo sfondo, cara signora Pierangela, il brano di Michea. Michea come vedeva il culto del Signore? Lo vedeva in questo modo, cioè lo vedeva come l'erger del monte per eccellenza, che era il monte del Tempio di Gerusalemme, quindi l'ergersi, il dominare del monte del Tempio. A questo monte affluivano tutte le genti, attingendo praticamente alla legge, alla Torah ebraica, e nel momento in cui tutti si sarebbero convertiti all'unica fede, che era la fede della Torah nel Dio di Israele, la pace si sarebbe diffusa. E allora avveniva non solo il fatto che le lance diventano falci, le spade diventano aratri e una nazione non alzerà più la spada contro l'altra nazione, ma, diceva Michea, siederanno ognuno tranquillo sotto la vite, sotto il fico, e più niente li spaventerà, poiché la bocca del Signore ha parlato, perché tutti attingono, prendono il pane dalla parola stessa del Signore. Questa era la visione di Michea. La visione di Gesù è un po' diversa, perché la visione di Gesù, è in questo brano che abbiamo commentato, lo sottolinea, per Gesù non c'è più bisogno del monte. Noi possiamo anche dire al monte: levati e gettati nel mare, ma che non è importante, cioè questo avviene perché non è il monte in sé quello che interessa a Dio, ma è il rapporto con il suo popolo. Tanto vero che nel libro dell'Apocalisse verrà sottolineato proprio questo aspetto. Nella città, nella Gerusalemme celeste, non ci sarà più tempio, non ci sarà più sacrificio. Perché? Perché Dio sarà in mezzo al suo popolo e sarà Lui il sole che illumina e edifica il nuovo tempio, che è il corpo di Cristo, che è il corpo dei fedeli. Quindi c'è una maturazione, se voi volete, o una rivoluzione di quello che era la concezione religiosa del primo secolo. E ovviamente non c'è solo un cambiamento, una rivoluzione, c'è anche una continuità, perché in fondo Michea voleva dire bene o male la stessa cosa, cioè anche per Michea non era tanto l'edificio in sé ad essere centrale, ma il fatto che la bocca del Signore può finalmente parlare e tutti attingono da questa parola che permette alla pace di dimorare e quindi a ciascuno di stare tranquilli sotto il fico e sotto la vite. Il significato poi simbolico di queste due piante ha avuto le interpretazioni più varie. Quella che lei fa non era estranea ad alcuni padri della Chiesa, però ovviamente non è l'unica, e anche se stiamo al testo biblico magari è un pochino forzata, però la tradizione l'ha utilizzata, quindi diciamo che esegeticamente non è corretta, ma spiritualmente potrebbe funzionare. La ringrazio, signora Pierangela, perché come vede anche la sua domanda ci ha permesso di approfondire ulteriormente la nostra riflessione. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera padre, sono Letizia da Taranto. Sì, Letizia. Senta, io innanzitutto grazie per la sua catechesi. Volevo porle questa domanda a proposito della contrizione fino al pianto per aver peccato. Allora, tante volte mi chiedo, può essere una sottile superbia per non aver fatto il bene che pure ho capito, che abbiamo capito per amore del Signore, o è davvero vera umiltà e amore nei confronti del Signore per non aver corrisposto alla sua volontà? Io l'ascolto per radio, ma prima le chiedo proprio una preghiera particolare per la mia conversione e per la conversione della mia famiglia. La ringrazio e l'abbraccio. Grazie. Grazie signora Letizia, insieme alla comunità di Radio Maria portiamo sempre nella preghiera proprio tutti voi ascoltatori, e quindi in genere quando chiudiamo questa trasmissione, ognuno di noi se ne va a casa arricchito doppiamente, no? Arricchito doppiamente perché? Prima di tutto perché siamo fortificati dalla parola del Signore e poi perché c'è una preghiera vicendevole che ci unisce. Tanti mi affidano proprio intenzioni di preghiera, benedizioni, richieste di ricordare al Signore, ma quando siamo una comunità radunata attorno alla parola c'è come una benedizione che scorre tra di noi e non è che ci sia quello che dà la benedizione e quello che la riceve, ma ognuno di noi è benedizione per l'altro, perché ognuno di noi è raccolto attorno a questo pane, il pane della parola, che viene spezzato e condiviso. Allora lei pone la domanda, riprende la questione della compunzione del cuore, della contrizione. Qual è il segno che la contrizione del cuore è autentica? A mio avviso il segno è quando la compunzione è duplice, cioè ci sono i due elementi di cui abbiamo parlato prima, cioè da un lato le lacrime sono il frutto della gioia, della gratitudine, della riconoscenza per l'immensità dell'amore di Dio e dall'altro sono segno del riconoscimento del nostro peccato che mette subito in moto i meccanismi della conversione, cioè il cambiamento del proprio io, che è sempre un io esigente. Quando ci sono questi due elementi, la compunzione è vera. Se ci fosse un solo elemento, bisogna stare attenti, perché il rischio di avere le lacrime solo perché uno si trova oppresso dal proprio peccato o perché riconosce semplicemente il proprio peccato può essere rischioso, perché può portare a lasciarsi schiacciare dalla propria povertà, può portare a forme di depressione o a false forme di conversione. Sapete, quando uno si sente talmente schiacciato dal proprio peccato, è il momento in cui uno dice anche che non ci può far niente per combatterlo e quindi subentra la rassegnazione. Quando invece alle lacrime per il peccato si unisce la gioia per l'amore di Dio, e allora le cose cambiano, perché uno si sente non solo povero per il peccato, ma si sente già rivestito dalla grazia di Dio e allora sente già dentro di sé quella forza che gli permette di rinnovare la propria esistenza e non resta prigioniero della rassegnazione. Penso che la compunzione del cuore debba proprio avere questi due elementi e sono anche i due criteri di discernimento che ci permettono di valutare bene le cose. Ecco, questo è quanto sento di dire io. Penso che altri relatori all'interno della comunità di Radio Maria possano ulteriormente arricchire questa mia risposta e magari anche voi potete farla ad altri relatori che trattano temi magari legati all'ambito della spiritualità o altri temi per vedere se anche loro danno una risposta più o meno simile o magari la arricchiscono con ulteriori dettagli. Grazie Letizia per la tua domanda. Pronto? Pronto. Buonasera. Sì, buonasera, sono Raffaele e chiamo da Milano. Bene, volevo fare una domanda di cui lei ha già dato la risposta, ovviamente. Volevo chiedere, la compunzione del cuore ovviamente è un rapporto d'amore. Se il Signore la dà o meno, è un rapporto, questo che le dico è banale, e il Signore ama di più o di meno, anche quello, però penso che il rapporto d'amore è talmente personale che il Signore, non dico può amare di più una persona o meno, però dà i suoi doni a chi li vuole, io credo. Certo. Poi un'altra domanda. Chiedere dei segni quando si è nel buio più totale che Dio non risponde assolutamente, manco se non so, gli fai chissà che cosa, è positivo, cioè nel senso è un bene chiedere dei segni al Signore. E poi un'altra cosa. Le chiedo, a poi tutta Radio Maria, una preghiera per la conversione di un mio amico che si chiama Lauro. La ringrazio, l'ascolto per radio. Va bene Raffaele, grazie per queste tue domande. Allora, spero di riuscire a rispondere a questi interrogativi. Il primo interrogativo è legato al più o meno, cioè il rapporto, lei dice la compunzione del cuore è segno di un rapporto d'amore, ma il Signore lo dona ad alcuni no. Allora, come la mettiamo? C'è un più o un meno? Potrei rispondere a questa domanda facendo un esempio classico che in genere viene utilizzato, no? ognuno di noi ha una storia diversa, come bene evidenziava lei, e quindi il rapporto di ciascuno di noi con Cristo, con Dio, è diverso. Se noi poniamo davanti un bicchiere e una brocca, il bicchiere e la brocca hanno due capacità diverse, però nel momento in cui vengono riempiti di acqua, l'uno e l'altro, anche se il bicchiere contiene 10 centilitri di acqua, 25 centilitri di acqua, e la brocca invece 2 litri, quando sono pieni, tutti e due. Però uno è pieno con 2 litri di acqua, l'altro invece con un semplice bicchiere. In altre parole, non c'è un più e un meno agli occhi di Dio, c'è quanto ognuno di noi, a partire dalla propria conformazione, dalla propria personalità, riesce a contenere in quel preciso momento. Quando siamo bambini, noi riusciamo a rapportarci a Dio in un determinato modo. Quando siamo adulti in un altro, quando siamo anziani in un altro ancora, perché di per sé la nostra capacità di Dio dovrebbe diventare sempre più grande, man mano cresciamo se ci lasciamo lavorare da Lui. Quindi davanti a Dio non penso ci sia un più o un meno, c'è sicuramente il desiderio di poter avvolgere tutta la nostra persona nel suo mistero di amore. È giusto chiedere segni? Ma io più che chiedere segni direi che è giusto chiedere al Signore di riconoscere i suoi segni, perché vede, le nostre giornate sono piene di segni di Dio. E quando noi ne chiediamo ulteriori rischiamo di essere dei golosoni di segni di Dio, e giustamente il Signore non ne dà più, perché le nostre giornate, da quando apriamo gli occhi fino a quando la sera ci addormentiamo, e a volte anche nel sonno, sono pieni di segni di Dio. Il problema è di discernerli. Noi non siamo capaci a volte di discernere i segni di Dio. Dio ci parla attraverso i fatti del quotidiano, Dio ci parla attraverso le persone che incontriamo, Dio ci parla attraverso la liturgia, la parola, la preghiera. E a volte proprio quelle occasioni più scomode, quelle persone che magari ci pestano i piedi e ci danno così fastidio nella giornata, sono proprio quelle di cui il Signore ci serve per stimolarci, punzecchiarci, farci capire che Lui si aspetta qualcos'altro da noi. Poi sicuramente portiamo nella preghiera la persona che lei ci è affidata, e ricordiamo sempre che il modo migliore per stimolare la conversione degli altri è la nostra conversione. È un po' come la storia dei due asini, dell'asino che non voleva bere. Ecco, per far bere l'asino, il padrone cosa fece? Gli mise accanto un altro asino che beveva tanto, al punto tale che l'asino che non beveva si convinse che era importante bere, e si mise anche lui a bere. Cioè la nostra testimonianza a volte, se è una testimonianza autentica, gioiosa, ha la forza di trascinare l'altro, o perlomeno di suscitare quegli interrogativi che mettono in discussione. Grazie Raffaele per il tuo intervento. Buonasera, mi chiamo Elena, chiamo da Roma. Mi dica Elena, dalla capitale. Io chiamavo perché stavo ascoltando la signora prima di Palermo che parlava di superstizione, di conversione, di vita nel peccato. Io ho avuto un'infanzia e un'adolescenza oratoriana, abito vicino a un oratorio di Don Bosco, quindi... Poi progressivamente mi sono allontanata, come purtroppo succede a molte persone, sempre più dalla chiesa, dalla liturgia, dalla frequentazione cattolica, e ho vissuto una vita sicuramente che ha avuto dei tratti di male, di errore, di peccato, con molte difficoltà. Mi piace attribuire il mio riavvicinamento alla chiesa cattolica ad una grazia del beato Giovanni Paolo II, che dal giorno della sua morte mi ha chiamato ogni giorno con un segno, con un ritratto, con una foto, con uno scritto, sempre con qualcosa che mi portasse di nuovo dentro una chiesa. A proposito della superstizione, io non direi superstizione, ma sicuramente c'è una grossa difficoltà in chi disperato si riavvicina a Dio dopo tanti anni, e c'è una grossa richiesta di aiuto. Per quanto poi possa essere vista come superstizione, avere una croce al collo o portare un rosario addosso non è solo il mettere l'amuleto, ma è un senso di protezione, una richiesta di protezione, o almeno io così la vivo. Certo. E da questo, dal pianto, dalla disperazione, è nata anche la voglia di fare un percorso con molte difficoltà, con molti interrogativi, con la difficoltà soprattutto della fiducia, di capire cos'è la fede, abbandonarsi totalmente a Dio. E quando si pensa o si è pensato per una vita di poter fare tutto da soli, insomma di poter risolvere tutto da soli, ma con la richiesta della grazia continua, dell'accrescimento della fede, con la richiesta della sempre maggiore conversione alla fede cristiana e alla liturgia cattolica, che è molto importante. Credo che molti di noi si trovano a fare la fede fai da te, no? Io, Dio è sempre con me, e io che l'ho sperimentata dico che forse sicuramente Dio era sempre con me, ma io non ero sempre con Lui, quindi da un anno a questa parte ho cercato di mettere nella mia vita l'appuntamento quotidiano con Gesù Cristo, sia esso, e con la Madonna e con Dio Padre, sia esso in chiesa, sia esso in ufficio, sia esso in macchina, con voi tramite Radio Maria. Non so se dico magari delle cose che non hanno senso, ecco. No, grazie Elena per questa tua condivisione, che non solo ha lo spessore dell'esperienza che tu hai vissuta, ma anche ci permette di evidenziare alcuni aspetti molto importanti, no? Tu, riprendendo il discorso della superstizione, hai sottolineato l'importanza di portare qualcosa, no, con sé, come la croce. E evidentemente questo è importante, è molto importante. Quando due persone si vogliono bene, in genere si regalano qualcosa che ricordi all'uno la presenza dell'altro. È tanto vero che la liturgia ha addirittura assunto questo elemento nel momento in cui nella celebrazione nuziale, ad esempio, c'è lo scambio della fede come elemento di fedeltà tra l'uno e l'altro. Ma anche in altri momenti che fanno parte dell'itinerario della catechesi, ad esempio, ci sono le cosiddette consegne, tra le quali la consegna della croce da portare con sé. Ovviamente tutte queste cose non sono superstizioni, sono elementi simbolici, elementi importanti che servono a noi per ricordarci la nostra identità cristiana e la protezione sotto la quale siamo quotidianamente. Ha parlato anche dell'importanza della liturgia, è molto molto vero, la liturgia è lo spazio, il luogo in cui il Signore ci parla, in cui il Signore ci viene incontro. Ed è tra i diversi momenti quello che ci riserva in genere più sorprese, perché lì non è all'opera solo la fede personale, ma c'è una fede ecclesiale sostenuta dalla vitalità e dalla forza dei sacramenti. La liturgia poi ci rimanda a quella dimensione che non è la dimensione privata, ma è la dimensione ecclesiale. Ieri, riflettendo sui testi dell'ascensione di Gesù, facevo notare come Gesù, nel momento in cui ascende al cielo, non dice ai suoi di ritirarsi a Gerusalemme, ma non dice a Pietro di tornare a Cafarnao o a Bartolomeo di tornare a Cana di Galilea e di darsi appuntamento tra 10 giorni, no, di far adunare tutti a Gerusalemme, dove ci sono gli 11, le donne e i parenti di Gesù, cioè fa fare l'esperienza, questa piccola comunità in attesa dello Spirito, fa fare l'esperienza di Chiesa, come se senza Chiesa non fosse possibile ricevere lo Spirito Santo. Bisogna essere quasi insieme, essere parte di una comunità per ricevere il dono che dà compimento all'esperienza di fede. Quindi la tua esperienza, Elena, è veramente arricchente da tutti questi punti di vista e risponde anche all'ascoltatore precedente, al signor Raffaele, no, che poneva quella domanda sui segni. E tu l'hai tradotto nella tua esperienza di vita, i segni che Giovanni Paolo II, nel tuo modo di leggere ovviamente il percorso, ti ha mandato per richiamarti a quella fede di cui lui è stato custode per tanti anni. Grazie per questa tua condivisione, Elena. Sei pronto? Pronto, buonasera. Sono Emanuela di Padova e volevo solo rispondere a quella signora che voleva praticare la preghiera del cuore. Sì. C'è un libro che forse padre, forse lei conosce, non lo so, e il titolo è Racconti di un pellegrino russo. Certo, certo. In questo libro si spiega questa ricerca del pellegrino, dove la preghiera del cuore è la famosa frase che dice: Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore, o anche senza peccatore, abbi pietà di me. Questa preghiera così breve, pregata continuamente, prima a fior di labbra pronunciandola, diciamo, sottovoce, e poi pensandola semplicemente, respirandola, è la famosa preghiera del cuore, che può essere praticata addirittura in continuazione. Certo, ci vuole allenamento, però è la preghiera che aiuta il cuore ad aprirsi. Questa è la preghiera del cuore, del libro è molto bello, Racconti di un pellegrino russo. Volevo solo dare questa informazione. Grazie Brade, buonasera, arrivederci. La ringrazio signora Emanuela per questo suo suggerimento, è un testo effettivamente molto bello che merita di essere preso in considerazione su questo tema, e anche lì vedrete, cari ascoltatori, come l'obiettivo di colui che narra non è tanto quello di insegnare una tecnica o una formula, ma quello di aiutare attraverso questa modalità a entrare in quella duplice esperienza che è la compunzione del cuore e la gratitudine nei confronti dell'amore di Dio. Quindi penso che quanto ci siamo detti stasera, per chi è interessato a questo argomento, possa veramente essere compiuto con la lettura di questo testo, che tra l'altro è anche un testo molto piccolo, che si legge molto bene, ricco anche di singoli episodi che fanno meditare. Quindi grazie davvero Emanuela per questo tuo intervento. Allora cari ascoltatori, siamo al termine della nostra trasmissione. Desidererei dire grazie proprio a tutti coloro che sono intervenuti e hanno arricchito la nostra riflessione, alla signora Franca, a Giovanna da Palermo, a Pierangela di Monte Brianza, a Letizia di Taranto, a Raffaele qui di Milano, a Elena dalla Capitale e alla nostra Emanuela. A tutti voi un sincero grazie per aver arricchito la nostra riflessione sul Vangelo di Marco, e sosteniamoci nella preghiera perché il giorno di Pentecoste possa portare nei nostri cuori quella luce in più dello Spirito che ci rende sempre più discepoli del Signore di cui abbiamo condiviso e ascoltato la parola. Buona serata a tutti voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.